Il punto di Stefano Folli. E così avremo due sistemi elettorali, uno per la Camera e uno per il Senato. Grande abbondanza, dopo che per anni ne abbiamo avuto uno, il famoso Porcellum, talmente pessimo da essere abolito d'imperio dalla Corte Costituzionale. Insomma, c'è tutta la tortuosità della politica italiana in questo compromesso che ci darà solo mezza riforma elettorale e che è il frutto del pasticcio di avere, anche qui, non una ma due maggioranze. La prima, quella che sostiene il governo fra Renzi e Alfano, e la seconda, per fare appunto la legge elettorale e forse chissà le altre riforme, fra Renzi e Berlusconi. Il risultato è che proprio Berlusconi è stato decisivo per salvare questa complicata architettura. D'ora in poi però il capo di Forza Italia condizionerà in modo ancora più pressante il giovane premier sulle vere questioni di potere. Quanto a Renzi, deve sperare che la riforma del Senato a questo punto proceda di buon passo, il che è tutto da verificare, perché nessun paese può permettersi di avere due sistemi elettorali in totale contraddizione.